Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, eccoci di nuovo in diretta con voi, puntuali come le tasse, ci siamo naturalmente, appena passate queste prime giornate di vacanze natalizie, abbiamo superato il Natale, adesso andiamo incontro al Capodanno, tra cenoni, cibo a non finire, insomma disintossichiamoci un po' in questi giorni parlando di un argomento che fa un po' arrabbiare tutti i commercianti se vogliamo, ma in qualche maniera forse rasserenerà il portafoglio di qualche consumatore. Allora, a Londra sono partiti già il 26, non hanno aspettato neanche un attimo. In Italia invece l'avvio ufficiale della stagione dei saldi è il 2 gennaio, ma ribadiamo, parliamo dell'avvio ufficiale perché, come si saranno accorti in molti, le strenne di Natale sono partite invece già molto prima in molti negozi, prima di Natale, come dicevo, con un certo sollievo per i consumatori e in qualche caso anche con qualche disappunto per quei commercianti che invece continuano a chiedere che anche a dispetto della crisi la politica del saldo venga disciplinata molto più rigidamente. E comunque, tornando all'ufficialità, a partire il 2 gennaio saranno diverse città quest'anno: Napoli, Roma, Bologna, Milano, Venezia e Palermo. Proprio questa mattina, peraltro, le associazioni più rappresentative del mondo del commercio hanno diffuso il calendario. Poi il 3 toccherà a Trieste e via via con tutte le città italiane. Se vi interessa dunque sapere quando si inizia, potete consultare il sito della Confcommercio, il sito della Confesercenti. I saldi dureranno almeno fino a metà marzo e poi via con la vendita degli articoli primaverili. Ma insomma, cosa ci si aspetta quest'anno dai saldi? C'è già chi annuncia un vero flop. Avete appena sentito nel corso del nostro giornale radio le dichiarazioni del presidente di Codacons, ma oggi vi daremo anche le consuete indicazioni per acquistare in saldo con attenzione, anche perché in questa fase i commercianti devono darci tutte le garanzie e tutte le tutele di un acquisto ovviamente corretto, e anche noi dobbiamo cercare di far crescere la nostra cultura consumeristica, cercare di fare degli acquisti con criterio. Allora, chi ci aiuta questa mattina a commentare tutti questi discorsi? Intanto ci aiutate voi all'800 24 00 24, intervenite, io vorrei che ci raccontaste stamattina quanti di voi stanno aspettando questo 2 gennaio per buttarsi negli acquisti. Avete rinunciato magari all'acquisto che volevate a tutti i costi prima di Natale proprio per aspettare di ottenere qualche risparmio, visto che quest'anno, come vi dicevo, con i saldi si parte in molte città prima del solito. Quindi raccontatecelo al nostro numero verde, noi commenteremo le vostre intenzioni di spesa per le prossime settimane. Intanto con Massimo Vivoli, vicepresidente vicario di Confesercenti, che è già stato con noi qualche giorno fa a Soldi e Dintorni, e lì cercavamo di dare indicazioni sulle tutele per chi acquista all'ultimo momento. Vivoli, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio in questa buongiorno circostanza. A lei, buongiorno. E poi sentiremo Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Questa associazione, tutte le associazioni dei consumatori vanno a monitorare molto attentamente quello che accade in questi giorni, ma questa associazione dei consumatori organizza ogni anno in questo periodo lo sportello Pronto Saldi. Ci sono dei numeri di telefono a cui che si possono interpellare appunto per denunciare se qualche pratica commerciale non viene esercitata in modo corretto in questo momento. Longo, benvenuto. Buongiorno. Un altro amico di Salva Danaio e ci fa molto piacere risentirlo di nuovo anche stamattina. Allora, io vi ho dato come sempre il numero verde per intervenire, vi ricordo anche che ci potete scrivere al 349-238-6666 se siete dei timidi e stamattina non avete voglia di chiacchierare ma comunque volete commentare il tema del giorno di Salva Danaio. E ecco qua che infatti stanno già arrivando. Fabio scrive: ma i saldi sono ancora saldi? Fatevi questa domanda. Una volta con i saldi a fine febbraio si era più sicuri. Io quasi la certezza matematica che Fabio sia un commerciante e magari se volesse intervenire ci farebbe piacere. Allora, la borsa, andiamo un po' a vedere come si sta chiudendo l'anno per i mercati finanziari internazionali. Molto bene. Stamattina non c'è Londra, l'appello, perché è chiusa per il Bank Holiday, ma le altre piazze non ne sentono affatto la mancanza, perché Parigi e Francoforte già da stamattina hanno segnato in avvio un bel balzo e anche stamattina si conferma. Più 0,7% sia sulla piazza francese che su quella tedesca. Milano da stamattina invece va meglio delle altre, partita con un balzo di oltre un punto, lo ha ridimensionato leggermente ma continua ad essere la miglior piazza d'Europa con un più 0,8%. Bene anche Zurigo, vi segnalo Zurigo perché sta viaggiando sui massimi da 12 mesi, ma vanno bene anche tutte quante le altre le altre piazze, vi cito anche magari qualche listino minore. In Belgio il Bel 20 guadagna lo 0,8%, l'AX di Amsterdam è più 0,6%. A Piazza Affari stamattina Geox guida i rialzi con un più 3, Tenaris sulla scia di tutto il settore energetico che va bene per il petrolio, che invece, ahimè, continua a crescere, $78 al barile, figuriamoci la benzina come non si sia adeguata. Seduta stante, Tenaris più 1,83% a Piazza Affari. Bene il settore assicurativo anche con Generali, più 1,78% e Unipol, più 1,73%, e il settore bancario che è guidato stamattina da Intesa e Mediobanca, che segnano un progresso di un punto e mezzo. Due titoli negativi, Finmeccanica meno 0,18% e Snam meno 0,14%, quindi prestazioni negative ma abbastanza moderate. Poi tra i titoli che guadagnano meno, Enel più 0,06%, Lottomatica più 0,15%. L'euro sul dollaro riconquista la soglia di 1,44%. Noi lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina, si parla di saldi in arrivo. Mancano pochi giorni all'inizio dei saldi invernali, che quest'anno prenderanno il via con un po' di anticipo rispetto agli anni scorsi. A fare da apripista saranno Roma, Milano, Bologna, Napoli e Torino il prossimo 2 gennaio. Fanalino di coda sarà invece il Trentino, dove i ribassi inizieranno il 9. Ma più che corsa all'acquisto quest'anno, sembrerebbe essere una corsa al risparmio. Un'occasione per portare a casa un oggetto già individuato, ma spesso troppo costoso per le proprie tasche. Se da un lato dunque i consumatori sperano di poter fare buoni affari, dall'altro anche i negozianti confidano negli sconti per rilanciare le vendite. Per fare un primo bilancio bisognerà aspettare almeno il giro di boa delle 2 settimane dall'avvio, ma intanto dalle associazioni dei consumatori, puntuali come sempre, sono arrivati i consigli per rendere i saldi di fine stagione una vera occasione per comprare a prezzi convenienti. Anche se non tutti ci credono, allora raccontateci quali sono le vostre perplessità sull'argomento saldi, almeno nelle modalità in cui vogliamo trattarlo oggi, perché insomma quest'anno molte città anticipano, molti negozianti hanno già anticipato in dicembre pur non essendo partita la stagione ufficiale, e stamattina ovviamente vi daremo anche tutte le regole per fare un acquisto con criterio. 800 24 0024 è il numero verde per i vostri interventi, oppure scriveteci al 349 238 6666. Fabio, prontissimo, ci ha risposto. Fabio non fa il commerciante, fa l'operaio, ma non ha l'anello al naso. Allora, Massimo Vivoli, parto con lei, vicepresidente vicario di Confesercenti. Io stamattina non ho il vostro calendario sulla partenza dei saldi o quello dell'altra vostra organizzazione, tra virgolette, concorrente, insomma, comunque di Confcommercio, che stima che ogni famiglia quest'anno spenderà nei saldi invernali poco più di 400 euro per abbigliamento ed accessori, per un totale di spesa di 6 miliardi e 100 milioni di euro, che va ad incidere per il 21% sul fatturato del settore. Adesso a noi non interessano le statistiche macroeconomiche grandi, ci interessano quelle un po' più piccole. Voi avete pure stimato quante famiglie approfitteranno dei saldi per magari regalarsi quell'articolo a cui hanno rinunciato in questo dicembre difficile, in cui la tredicesima si è dovuta destinare ad altro, magari a qualche spesa arretrata di altro genere, la bolletta o ancora la rata del mutuo? Vivoli. Ma spesso anche, diciamo così, le indagini fatte, diciamo che più che altro percepiscono quello che è il settore. Ecco, noi commercianti ci auguriamo che siano i saldi effettivamente della speranza, così l'abbiamo voluti sottolineare, nel senso che i consumi, essendo fermi da tempo, già i commercianti avevano attuato un contenimento dei prezzi. Crediamo che queste occasioni che si aprono con i saldi, che iniziano come gli anni passati dal 2 di gennaio nelle grandi città, per arrivare poi fino al 9 gennaio, come è stato ricordato il calendario, e ci auguriamo che siano saldi in cui effettivamente i commercianti abbiano, diciamo così, la possibilità di rivedere quello che è il bilancio, che è stato un bilancio sicuramente negativo nella vendita dei prodotti invernali. E allo stesso tempo è una grande occasione per i consumatori per poter acquistare, diciamo così, a prezzi molto ma molto contenuti. E infatti io sono d'accordo con lei su tutto questo, però di fatto c'è anche al vostro interno, fra i commercianti ovviamente che rappresentate voi o che rappresentano le altre organizzazioni, appunto c'è una sorta di malessere su come viene comunque organizzata la politica del saldo, perché qualcuno lamenta che si parte in ogni caso molto presto, magari isolando un po' il tema, dottor Vivoli, dalla questione crisi economica. Sicuramente quest'anno le politiche politiche che ogni esercente ha dovuto praticare sono state inedite, originali, molto differenti da anni, economicamente parlando, più felici. Ma secondo lei, insomma, questo è un dibattito che ogni anno noi riproponiamo? Io faccio Salvadanaio da 6 anni, ogni anno abbiamo lo stesso argomento. Comunque, di fatto, si ha la sensazione di un, come dire, di una questione, non dico disciplinata male, ma che comunque scatena un dibattito ferocissimo fra di voi, e in ogni caso sono le regioni che decidono, e poi ogni commerciante chiaramente della sua attività, e se vuole praticare degli sconti a novembre con la propria clientela, ha libertà di farlo, no? Ma il commerciante, diciamo che ha la libertà di attuare il ricarico sulla merce come ritiene meglio opportuno, anche adeguandolo al momento. Sa, tutto questo tipo di discussione vengono fuori ogni anno, e sono d'accordo con lei, e quando purtroppo le cose non stanno andando bene da diversi anni. Però questa è una discussione di una legge che a livello regionale viene presa in accordo con le associazioni di categoria, sicché diciamo che la base viene interpellata e si cerca, diciamo così, di andare verso una soluzione che riguardi gli interessi generali. Però, come ripeto, in un momento in cui effettivamente le cose non stanno andando bene in diversi settori, però il commerciante è libero di dover attuare i ricarichi che ritiene più opportuno, andare incontro a quelle che sono le esigenze della propria clientela. Non ci dimentichiamo una cosa, che cioè le attività commerciali nella sua stragrande maggioranza, quelle tradizionali, hanno una clientela che è fidelizzata, che anche il rapporto stesso con il cliente, come veniva ricordato, della telefonata o del biglietto d'invito a passare prima dell'inizio dei saldi perché ci sono sconti di promozione, sconti di Natale o meno, questo rientra in un rapporto di fidelizzazione con il cliente. Ecco, le attività commerciali nella sua stragrande maggioranza in Italia hanno questo tipo di rapporto qui, perché non ci dimentichiamo anche che è anche cambiato il modo di consumare da parte dei clienti, ecco. E infatti poi magari ne parleremo, Vivoli, perché io per esempio quest'anno organizzando una puntata di Salvadanaio sul tema degli outlet, le cittadelle della moda, non dico che cosa non sia venuto fuori, ovviamente anche lì piccoli commercianti molto arrabbiati, quello è un settore che riguarda molto vivace soprattutto nel settore dell'abbigliamento, molto arrabbiati perché in sostanza ritengono che sia una forma di concorrenza sleale se i grandi stilisti poi preferiscono magari dirottare la loro merce di grande qualità verso queste strutture abbattendo notevolmente i prezzi, cioè allora noi che cosa ci stiamo a fare? E insomma anche questo è un dibattito, però mettiamoci pure come dire una mano sulla coscienza, se il mondo del consumo va in quella direzione, forse anche come dire il mondo del piccolo commercio, con tutto il rispetto parlando naturalmente, perché non ci manca mai il rispetto verso chi fa questo lavoro, è segno che forse qualche riorganizzazione, insomma qualche ripensamento su come funziona, sui prezzi praticati, bisogna farlo, una riflessione di questo tipo. Adesso ne parleremo, microfoni aperti per voi. Volevo prima di sentire Giovanni da Roma, che è pronto ad intervenire, andare invece all'Associazione dei Consumatori. Antonio Longo, presidente del Movimento delle Difesa del Cittadino, come ogni anno parte, apre lo sportello Pronto Saldi 2010, non riguarda tutte le città italiane, verrà monitorato se non sbaglio particolarmente il Lazio, presidente Longo, ma nell'ambito proprio saldi in termini generali quest'anno ci sarà da vigilare in maniera più attenta, per quale motivo, insomma, e come monitorerete soprattutto la tendenza, l'atteggiamento dei consumatori? Ma guardi, intanto volevo aggiungere qualcosa di tipo informativo utile per gli ascoltatori, per i consumatori. Noi inizieremo subito dopo Capodanno con il Lazio, ma poi il servizio di informazione raccolta anche delle segnalazioni funzionerà a livello nazionale attraverso gli indirizzi di posta elettronica info@mdc.it oppure con i numeri che si trovano sul nostro sito. E adesso li daremo magari. Sì. Certo, a parte questo, una considerazione generale. Giustamente lei ha parlato un po' di polemiche ricorrenti ogni anno. Io direi che ormai questo dei saldi sta diventando un rituale stanco, e cioè una formula, una modalità di organizzare gli sconti che forse come dire, mostra tutto il segno dell'età, insomma, della vecchiaia. È curioso che mentre con i decreti Bersani si sono liberalizzate anche le aperture dei punti vendita, dei piccoli negozi, ecco invece sulla possibilità di fare offerte, di fare sconti, eccetera, ci siano ancora queste rigidità, ci siano ancora tutte queste polemiche. E infatti, e chi credo, lo fa magari fuori stagione, come dire, deve farlo quasi con pudore, con vergogna, credo, nascondendosi, certo, mandando il bigliettino. Se mi permette solo una battuta, credo che ormai tutti abbiano capito che è ora di cambiare, di sedersi intorno a un tavolo, come ha detto anche il presidente di Confcommercio Sangalli, e studiare se non sia il caso di liberalizzare totalmente i saldi come noi chiediamo da anni. E va bene, questo magari è un tema del quale parleremo qualora la discussione intorno a questo tema si dovesse fare ancora più agguerrita, più forte. Di fatto adesso dobbiamo prendere atto di una stagione difficile, Vivoli lo ha ammesso, di una stagione dei saldi che riparte, quindi noi vorremmo anche capire che cosa cercano i consumatori quest'anno e se qualcuno a cui fosse avanzato qualche briciolo di tredicesima volesse approfittare della stagione appunto degli sconti, che cosa andrà a cercare, quanti di voi insomma aspettano i saldi per buttarsi negli acquisti. Sentiamo allora un ascoltatore e poi da questa sua considerazione magari partiamo nella seconda parte di Salvadanaio. Vi ricordo ancora, per intervenire 800 24 00 24, ci sono tanti commenti da molti ascoltatori, addirittura Giuseppe da Pordenone dice: perché non eliminiamo i saldi, applichiamo prezzi con ricarichi umani tutto l'anno come in tanti altri settori commerciali. I saldi ritengo siano una presa in giro, dice Giuseppe. Vediamo poi cosa ne pensano i nostri interlocutori. Giovanni da Roma, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, io non è che volevo parlare proprio dei saldi, non è che non vedo di buon occhio i saldi, per carità, anzi, volevo dire a quell'interlocutore che parlava prima, non so che è presidente della Confcommercio. Confesercenti abbiamo stamattina. Confesercenti, esatto. Io ho un figliolo che ha un negozio a Roma di scarpe, che tutto l'anno tira la cavetta per andare avanti. Mm-hmm. Poi gli si presenta il discorso dei saldi anticipati e questi saldi anticipati non so come faranno a coprire le spese questi negozianti che hanno queste spese, insomma, e diciamo che questi saldi anticipati andrebbero controllati un po' più severamente, perché qui ognuno fa come gli pare, non c'è più legge, qui i saldi si fanno quando vogliono. Lo so Giovanni, ma però... Ma poi c'è una polverizzazione già del commercio, non esiste più un guadagno per me vedendolo, almeno che non ci sono questi grossi complessi, questi centri commerciali che pure loro stanno in difficoltà, ormai per me è polverizzato tutto. Allora, tra questo e quello, i saldi e gli affitti che non si riescono più a pagare, vorrei sapere dal Presidente del Commercio come si fa a ragionare in questi termini. Sì. Io sono il papà, discuto per conto del mio figlio. Sì, abbiamo capito Giovanni. Allora, tanti saluti a suo figlio, naturalmente, insomma, titolare di un piccolo esercizio di calzature, e dice, insomma, la carretta qua non va più avanti. Giovanni, ovviamente, tanti saluti a lei e al suo ragazzo. Noi da questa sua considerazione ripartiamo nella seconda parte di Salvadanaio. 800 24 00 24, ancora per raccogliere i vostri commenti. A tra pochissimo. Salvadanaio. I saldi questa mattina a Salvadanaio, saldi che partono molto presto quest'anno in tante città italiane, il 2 gennaio, poi magari vi ridò anche la lista delle principali città in cui si comincia subito con gli sconti per affrontare una stagione di acquisti regolari, invece che per i commercianti è stata molto difficile. Però io vorrei anche invitare i nostri ascoltatori, adesso al di là del fare la polemica fra saldi sì o no, quando li facciamo, liberalizziamoli completamente o addirittura discipliniamoli in maniera più rigida, come l'ultimo ascoltatore che abbiamo ascoltato ci ha chiesto. Vorrei anche fare un po' di vademecum su chi invece, senza interessarsi a questi aspetti del tema di stamattina, vorrebbe godersi i saldi, come chissà farò io anche, può darsi, nei prossimi giorni, e magari cercare di fare l'elenco di tutte quelle tutele dalle quali non possiamo assolutamente prescindere quando ci approcciamo appunto al negozio del quale ci interessa un articolo che magari abbiamo visto qualche settimana fa e non vediamo l'ora di metterci le mani, risparmiando anche qualcosa. Tra l'altro, sul tema, tanti articoli di giornale questa mattina sulle pagine di Repubblica, della cronaca della Lombardia: Natale di austerity, causa crisi, tagliati 50 milioni sui regali e shopping in calo del 10%, ma i negozianti dicono ripresa vicina. Forse la zona Duomo di Milano non è esattamente rappresentativa di quello che accade in tutta Italia, ma lo scontrino medio per regalo quest'anno è variato dai 50 agli 80 euro, doni più poveri rispetto allo scorso anno, quando il costo era da 70 a 100 euro. Comunque lo shopping è complessivamente calato del 10%. Un altro articolo molto divertente sulla Stampa stamattina: alla scarpa non si rinuncia, calano i consumi ma gli italiani continuano a spendere metà del budget nel look, la spesa per la cura di sé. Anche questo molto Molto divertente, molto interessante. Allora, Massimo Vivoli, Confesercenti. Giovanni da Roma ci ha raccontato il caso del negozio di suo figlio che, come dire, insomma, noi li bacchettiamo un po' questi commercianti perché invitiamo loro magari a praticare delle politiche commerciali un po' più a vantaggio del consumatore per tutto l'anno, ma anche loro in sostanza dicono non ce la fanno. Voi stessi sul vostro sito, ho letto poco fa, il vostro presidente Venturi ha parlato chiaramente appena il 23 dicembre di una crisi continua per i piccoli negozi che continuano a chiudere, serve una terapia d'urto. Stanno chiudendo i piccoli negozi, ha ragione quella la radioascoltatore che ha posto il problema del figliolo, le piccole attività sicuramente stanno chiudendo, stanno soffrendo più di altre. Ecco perché dicevo prima, è da tempo, tutto il 2009 i commercianti hanno attuato una politica di prezzi molto attenta, con ricarichi tra l'altro proprio ridotti all'osso, i costi di gestione non ce la fanno a coprirle, il personale, gli affitti, le tasse, le imposte. Volevo dire, il mondo del commercio è attraversato effettivamente da una profonda crisi, da una crisi che a un certo momento si sta protraendo e che colpisce in modo particolare i piccoli negozi. I piccoli negozi, particolarmente poi i Vivoli, di che settore? L'abbigliamento? Perché sempre leggendo, ovviamente, chiaramente il periodo di Natale forse non è molto indicativo di quello che accade tutto l'anno, ma per esempio l'elettronica, ci sono certi settori che non conoscono crisi, è l'abbigliamento per esempio che soffre più degli altri? Ma abbigliamento in generale, uomo, donna e anche bambino, che prima non veniva colpito, le stesse calzature, c'è la pelletteria, sono settori tra l'altro che stanno soffrendo anche a livello industriale come posti di occupazione, ci sono grandi industrie che sono in sofferenza, piccole industrie tra l'altro che stanno chiudendo, cioè questi sono settori che hanno bisogno, diciamo così, i saldi poi hanno delle regole ben precise perché la legislazione è demandata alle regioni e le regioni, sentite le associazioni di categoria, le più rappresentative, trovano la data dell'inizio dei saldi, però il commerciante nel periodo della stagione che ha i magazzini pieni, come se chiuso sicuramente il settore invernale, il bilancio invernale trova i magazzini pieni, sicuramente il commerciante deve, diciamo così, liberarsi di queste scorte. Deve vendere, sicché i ricarichi erano già bassi e noi aspettiamo i saldi tra l'altro con fiducia, che come dicevo sono un'occasione, lo sono sempre stata, cioè sicuramente per i consumatori per comprare quei prodotti, cioè prima si comprava per avere un guardaroba, diciamo così, più ampio, oggi invece si aspetta di fare l'acquisto nel periodo dei saldi, è cambiato il modo di consumare, però il commerciante fidelizza molto il rapporto con la clientela, che diciamo che il rapporto proprio con il cliente viene fatto dalla qualità del servizio, ma anche dal prezzo stesso. Ma noi saremo ben contenti di avere un rapporto molto frequente con il nostro negoziante di fiducia, se non fosse che molte famiglie quest'anno hanno, è un concetto che ribadisco in continuazione, radicalmente cambiato la propria situazione economica, perché non ci dimentichiamo quanto è elevato adesso il tasso di disoccupazione nel nostro paese, percentuali che non vedevamo da tempo, speriamo di non vedere mai più, ma probabilmente il 2010 sarà ancora un po' complicato, per cui magari potessimo avere un buon rapporto in questi termini con il nostro commerciante di fiducia, quello che ci vende magari il maglioncino di cashmere che ci piace tanto, ma magari ecco in questo frangente molte famiglie possono mantenere solo questo rapporto, magari andandosi a prendere un caffè insieme al commerciante di fiducia, non potendo fare altro. Comunque, i saldi, come si fa a fare un acquisto oculato in questo momento? Adesso sentiremo Antonio Longo, ma sentiamo anche, ci sono due ascoltatori da Modena in questo momento, quindi Modena molto molto attenta sui saldi a Salvadanaio. Gabriele, benvenuto. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Una piccola precisazione, cioè, i saldi, secondo me, tempo fa si poteva parlare di saldi, oggi si fa fatica a parlare di saldi quando il negoziante, che come diceva il vostro interlocutore, deve smaltire la merce, ogni giorno però ha riassortimento del prodotto. Dunque, che materiale è, da dove viene, quanto ne ha in casa, non si capisce, se fosse un prodotto in saldo, dopo un giorno o due non ci sono tutti i colori, tutte le taglie. Dunque c'è qualcosa che non torna, o forse c'è una produzione per i saldi. Ah, addirittura lei lancia questa ulteriore provocazione. Allora, sentiamo un po' cosa ne pensano Vivoli e Longo, però ci metto insieme anche Ivano da Modena, che è addirittura un commerciante ed è per la piena liberalizzazione. Ivano, buongiorno. Buongiorno. Io intervengo, guardi, su alcune gli interventi degli ascoltatori, diciamo dei consumatori e non dei commercianti. Io vendo proprio scarpe. Sì. Quindi sono interessato anche a parlare di questa cosa. Mi fanno riflettere sul fatto quanta confusione e quanta disinformazione c'è da parte dei nostri consumatori. E sì, poi si fa molta fatica a tentare di educare nel senso buono, diciamo, un consumatore ad un acquisto oculato quando non si riconosce più né la qualità del nostro prodotto, e parlo del Made in Italy, né le disponibilità commerciali. Mi riferisco a... Esatto, ci faccio un esempio, Ivano, così lo commentiamo. Esatto, voglio essere chiaro. Allora, se io sono un piccolo commerciante ambulante, come diceva giustamente prima uno dei suoi ospiti, se io mi ritrovo il magazzino pieno nella fase invernale, naturalmente non posso avere l'esigenza di andare in saldo o praticare delle politiche, diciamo, di prezzo allettanti solo in 15 giorni all'anno. E certo, deve partire prima. Consideriamo anche un'altra cosa: io faccio 100.000 chilometri ogni 2 anni per andare a cercare prodotti sul mercato italiano di alta qualità a prezzi buoni, mm-hmm, per sovrapproduzioni, stock, blocchi e compagnia e tante altre cose. Una politica che la premia, Ivano, adesso a prescindere dall'attesa del saldo, che quest'anno comunque, a parte la difficoltà, l'ha premiata in ogni caso? Esatto, o no? Io credo di sì, però le faccio questo esempio: se io mi ritrovo con 400 paia di belle scarpe da vendere, da prendere, e le devo vendere, non posso tenerle sul mio banchetto o sul mio piccolo negozio per 2 anni, non posso dire adesso metto un prezzo e però il saldo lo devo fare solo 15 giorni in un anno, 20 giorni. Devo poter praticare delle politiche che da subito facciano capire al mio consumatore che cosa ha di fronte, cioè la grande occasione o la buona occasione. Per quanto riguarda le scarpe, aggiungo una considerazione, mi perdoni se le rubo qualche secondo. No, ma ci mancherebbe, guardi, noi c'è un po' meno pubblicità in questi giorni, abbiamo più tempo. Grazie, noi stiamo rischiando un intero settore industriale, che è quello della calzatura italiana. Nei distretti importanti della Riviera del Brenta, di Verona, ma anche marchigiani e toscani, noi abbiamo crisi radicali di industrie che fino a pochi anni fa esportavano migliaia di pezzi in America, in Asia, ma in tanti paesi anche dell'Europa. Questo sta a significare che noi abbiamo bisogno anche di ripensare non solo, diciamo, le politiche commerciali, ma anche le politiche con le quali vendiamo i nostri prodotti ai nostri stessi consumatori. Mm-hmm, certo. Io ho dei miei colleghi che dicono: io tengo delle cose a 10 euro cinesi perché le persone non hanno più neanche 30 o 50 euro per fare acquisti superiori. E infatti, Ivano, il problema è proprio quello, ecco, quello che tocca. La ringrazio, guardi, adesso la saluto perché l'ho fatta parlare a lungo, ma abbiamo capito sicuramente il nocciolo della questione: rivivacizzare, rivitalizzare anche il mercato domestico. Questa è una grande battaglia di una forza politica di opposizione in questo momento, rivitalizzare i consumi, rimettere un po' di soldi nelle tasche delle famiglie. Beh, una bella sfida in questo momento, una bella ricetta che chissà se qualcuno sarà in grado di compilarci. Antonio Longo voleva commentare. Ma guardi, proprio l'ultimo intervento conferma le cose che dicevo prima, che chiedevo, e cioè non si può affidare delle regole a dei tempi più o meno ristretti o più o meno larghi una politica di rilancio o di recupero, come in questo caso dei consumi. Questa va organizzata, va conquistata da parte di tutti i commercianti, ai quali va naturalmente tutto il nostro rispetto come consumatori, con un'attenta politica che coniughi insieme la migliore qualità con il miglior prezzo, magari cambiando nel tempo, ma a giudizio del commerciante, secondo le disponibilità dei suoi stock di prodotti o anche delle occasioni festive, della tredicesima piuttosto che di un'altra integrazione di reddito delle famiglie, le sue vendite. Quindi chiudo questa prima considerazione dicendo: non è possibile demandare a delle regole fisse politiche commerciali che devono invece puntare sulla qualità e sul prezzo e anche sulla conoscenza del cliente. Diceva bene Vivoli, la fidelizzazione è uno dei punti forti. Ebbene, il cliente fidelizzato capisce se ha davanti un prodotto conveniente, se ha davanti un prodotto di qualità, un prodotto di qualità più o meno buona, proprio partendo dal rapporto di fiducia. Allora, se c'è questo rapporto, non si capiscono queste regole. Allora, intanto, tra l'altro, rispetto probabilmente all'ultima volta in cui abbiamo organizzato organizzato questa trasmissione in cui ovviamente di parlare di liberalizzare completamente la stagione dei saldi non se ne voleva neanche sentir parlare, vedo una drastica inversione di tendenza, un drastico cambio di rotta per molti degli ascoltatori che ci stanno scrivendo. C'è un amico che non si firma, dice: sono appena tornato da Londra, sono commerciante, ho negozi negli outlet, i saldi vanno liberalizzati in questa congiuntura economica così forte, immagino dal punto di vista negativo, non si possono disciplinare, bisogna aiutare i commercianti, non soffocarli. Il tema è che qualche commerciante però vede addirittura come una politica di kamikaze per la medesima categoria, insomma, la politica del saldo completamente liberalizzato, quindi forse bisognerebbe anche che all'interno di loro stessi ci si mettesse d'accordo. Però adesso abbiamo suggerimenti per chi è in viaggio e poi vorrei tornare però al come dire, a tutto ciò che attiene al saldo, a chi ne approfitta. Abbiamo lo stesso diritto di recesso per un articolo comprato nella stagione normale, attenzione ai finti saldi, si può pagare con carta di credito, con il bancomat, esattamente come se facessimo un acquisto in alta stagione di commerciale, ovviamente mi riferisco, quindi controllare anche le etichette, i cartellini, ci sono tutte le regole da darvi. Adesso a questo tema dedichiamo la terza parte di Salvadanaio tra pochissimo. Salvadanaio. I saldi che partono il 2 gennaio, come avete sentito, un tema che si apre, che si presta a tantissime considerazioni. Noi oggi vogliamo tornare al nostro spirito di servizio per guidare i consumatori che approfitteranno della stagione dei saldi che si apre appunto fra pochissimi giorni in molte città italiane. Ricordo, il 2 gennaio tagliano il nastro, passatemi questo termine, Napoli, Roma, stranamente perché Roma non era mai stata tra le prime città, Bologna, Milano, Venezia e Palermo, e poi il 3 toccherà Trieste e via via andando con tutte le altre città italiane. Allora, Massimo Vivoli, vicepresidente vicario di Confesercenti, se acquisto un capo in saldo posso in che tempi fare il cambio della merce, se questo poi scopro non dovesse soddisfare tutte le mie esigenze, qual è la disciplina, insomma, del diritto di recesso in questo campo? So che gliel'ho già fatta questa domanda, ma era un altro orario e ripeterci non ci fa male di sicuro. No, il diritto di recesso vale su un acquisto normale, non è che il momento dei saldi trova una cosa, cioè, diversa nelle regole del rapporto tra commerciante e consumatore, cliente. Il punto diventa che, essendo saldi, molto probabilmente spesso non si ritrova magari la misura del solito articolo. Però il diritto di chi viene a acquistare è identico, si può pagare sicuramente con carta di credito, conservando lo scontrino si può tornare a cambiare l'articolo, certamente nei tempi, diciamo così, abbastanza brevi, ma anche nell'interesse stesso del consumatore. Cioè, deve passare però, secondo noi, una giusta, tra l'altro, indicazione di un rapporto, che il vero patrimonio, torno a ripetere, di un'attività commerciale non è tanto la merce esposta, ma è la clientela, cioè il fatto di fidelizzare proprio il cliente. Ecco perché la rete commerciale nel nostro paese è rappresentata oggi nella stragrande maggioranza da operatori commerciali, da un settore imprenditoriale molto ma molto serio. Abbiamo capito, Presidente, qual è il suo grande cavallo di battaglia, la sua grande convinzione, insomma, la fidelizzazione della clientela. Tornando invece al nostro vademecum per chi acquista in saldo, le leggo che cosa dice il Movimento Difesa del Cittadino nella sua lista dei suggerimenti per chi acquisterà con gli sconti nei prossimi giorni. Il Movimento Difesa del Cittadino dice: è fondamentale diffidare dei negozi che coprono le vetrine con enormi manifesti e non permettono di vedere la merce esposte, che risultano poco chiari. Eppure, insomma, è molto facile che si vedano nelle città negozi che si attrezzano in questa maniera per richiamare la clientela. Vivoli, hanno ragione le associazioni dei consumatori quando indicano anche di diffidare dei negozi che fanno così? Ma un commerciante ha l'interesse di mettere in mostra più merce possibile nella propria vetrina e farla vedere. Ora, poi ognuno organizza, diciamo così, il suo momento di vendita straordinaria dei saldi in cui ritiene opportuno. Noi diciamo sempre di diffidare, di guardare con la giusta attenzione quando lo sconto supera il 50%, di rivolgersi verso quelle strutture commerciali dove c'è un rapporto sicuramente che viene da tempo, ma poi noi siamo molto, tra l'altro, cioè anche rispettosi dal fatto che il cliente oggi sa quello che acquista, sa in che modo deve acquistare, sicuramente c'è una grande maturità anche, e torno a ripetere, il rapporto di interesse reciproco. Infatti, Vivoli, senta, lei so che è un commerciante nel settore dell'abbigliamento, no? Sì. Come si sta organizzando per le prossime giornate a Firenze, in Toscana? Noi ci stiamo organizzando, tra l'altro... Io le attività commerciali in Versilia, però ci stiamo organizzando proprio come centro commerciale naturale per cercare di dare anche un'immagine, cioè, molto originale a questo tipo di vendita qui, come fanno nelle grandi città e anche all'estero, dare un momento dei saldi, un momento anche di grande immagine delle vetrine. Ci organizziamo come tradizionalmente si fa, mettendo il prezzo iniziale che è conosciuto da parte di chi si ferma a guardare le vetrine delle attività commerciali, con lo sconto in alcuni articoli attuiamo un 30%, in altri articoli attuiamo un 40%, secondo che tipo di percentuale riteniamo, nel senso dell'assortimento, per dire, se rimane un capo è evidente che cerchiamo di alleggerire il magazzino, ecco, ma in modo, diciamo così, tradizionale, come abbiamo sempre svolto, come è sempre stato fatto. Sì. Allora, Antonio Longo, le faccio sentire un altro ascoltatore e poi andiamo con lei, anche, come dire, suggerimenti per il controllo delle etichette, dei cartellini e agli altri aspetti, appunto, che dobbiamo osservare molto attentamente quando acquistiamo in saldo. Sentirei Marco da Treviso. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, grazie. Senta, io sono perfettamente d'accordo con quello che dice il Presidente, nel senso che la gente è smaliziata ormai, per cui sa cosa vuole, sa, conosce la qualità di quello che acquista, e proprio per questo però la gente perde fiducia quando continua a vedere che durante i saldi i prezzi che mettono di listino non sono quelli che erano prima dei saldi. C'è chi addirittura utilizza lo stratagemma, Marco, di fare un giro per negozi, fotografare i prezzi che vede in vetrina magari prima dell'avvio della stagione dei saldi, per confrontare poi se lo sconto del 30-40% viene applicato proprio sul prezzo originario. Addirittura... E qui che perdiamo fiducia, perché siamo più smaliziati di una volta, per cui siamo, passatemi il termine, più intelligenti, perché forse una volta la gente veniva più abbindolata, cioè, diciamo, più facilmente, ma è proprio per quello che perdiamo fiducia, perché adesso abbiamo le tecniche per fare le foto alle vetrine, ci ricordiamo di più, sappiamo che queste cose vengono fatte, e poi è proprio lì che perdiamo la fiducia. Ed è vero che i negozi sono più portati a fidelizzare il cliente, ci sono mille servizi in più che una volta non c'erano, ma è proprio per questo che dovrebbero essere più intelligenti e non fare queste cose, perché a me è successo personalmente con un paio di sci l'anno scorso, acquistati a 199 euro, e durante i saldi, come per incanto, partivano da un prezzo di 2,60 e venivano venduti esattamente a 199 euro. Vabbè, ma a me è capitata un'altra che non è stata così spiacevole, nel senso che, per esempio, ho comprato una cosa adesso il 24 dicembre, quindi anch'io sono caduta ovviamente nella trappola di fare l'acquisto dell'ultimo minuto, ovviamente qualche regalo mi mancava, ho chiesto se non andasse, insomma, se non va bene questo capo posso cambiarlo entro quanto, e guardi, se ce lo riporta entro il 31, con tanto che ci sono un sacco di feste in mezzo, io mi sono dovuta un po' ammazzare, per fortuna il capo è andato bene. Quindi, insomma, noi sì, generalmente, come dire, indichiamo tante regole che dovrebbero essere correttamente praticate, poi qualcuno invece fa sempre un po' quello che vuole, anche da questo punto di vista. Allora, Antonio Longo, torno a lei. La storia dello scontrino, come dire, camuffato, è ricorrente anche questo, no? Guardi, intanto lo scontrino della targhetta, il cartellino del prezzo. Assolutamente sì. Intanto vorrei ricordare quello che ha detto correttamente Vivoli, cioè la vendita in saldo ha gli stessi diritti e le stesse garanzie, gli stessi limiti della vendita ordinaria, quindi assolutamente non ci può essere nessuna limitazione dei diritti del cliente. Naturalmente tra questi diritti però, per esempio, non rientra il fatto di cambiare il capo perché la taglia è più grande o perché il colore non piace. Quindi questa, diciamo, è una discrezione e una prova di fiducia anche del commerciante verso il cliente per fidelizzare. Proprio questo va bene, ed è su questo naturalmente che si gioca anche un rapporto costruttivo tra cliente e venditore. Devo dire una cosa. Quindi no, per dire, Presidente, solo una precisazione. Sì. Se il prodotto per esempio è difettoso, io vedo sempre il vostro vademecum, ho 2 mesi di tempo per poterlo cambiare. Certo. Se non mi piace di colore, invece se la persona a cui devo regalarlo non è contenta... Venditore, perché non rientra fra i diritti del cliente. Perfetto. Come dire, il cambio, ecco. No, no, anche per non andare a fare gli arroganti in negozio, perché giustamente noi dobbiamo saperci comportare, esatto, non è che ce la possiamo sempre prendere con le negozianti. Non sempre il cliente ha ragione, esatto. Bisogna dire. Così come se io compro però un maglione di pura lana, che penso che sia di pura lana vergine, e invece poi scopro che è il 10% di acrilico, ho il diritto che mi venga cambiato. Detto senza questo, andare in giro con la lente di ingrandimento a leggere tutte quante le etichette prima dell'acquisto. Certo, dovremmo fare pure quello, però non è bello. Detto questo però, correttamente, un negoziante che fa bene il suo lavoro, ce ne sono tanti, a parte non riempire i vetri di manifesti sui saldi e non mostrare la merce, dovrebbe applicare sullo scontrino, diciamo, il cartellino del prodotto, il prezzo di partenza, il prezzo scontato e la percentuale di sconto applicato. Naturalmente questo non sempre viene fatto, anzi viene fatto abbastanza raramente, così come ci sono commercianti, diciamo, poco corretti che approfittano dei saldi per i fondi di magazzino, non per stock che gli sono rimasti e che magari però sono validi, di moda, attuali o che non decadono mai, diciamo, dall'uso corrente. Però insomma, ecco, bisogna stare un po' attenti su queste cose. Poi il mercato c'è, voglio dire, se cerchiamo di conoscere queste regole, se vediamo che un commerciante non si comporta così, anche se proprio quel maglioncino lì lo vogliamo a tutti i costi, lasciamolo lì, perché poi magari ecco. Non c'è dubbio. Esatto. Assolutamente dubbio. Le percentuali di sconto, facciamo funzionare il mercato. Diceva Vivoli, il 30-40% è uno sconto accettabile. Fare le foto al prodotto che si vuole e confrontarlo con il dopo, diciamo durante il saldo, sarebbe perfetto, ma magari si rischia di non trovare più quel prodotto. Infatti, allora io non riesco a far intervenire i nostri ascoltatori adesso perché volevo lasciar concludere Massimo Vivoli, vicepresidente vicario di Confesercenti. Mi piacerebbe che commentasse con noi. Gli altri suoi colleghi rappresentanti delle organizzazioni del commercio degli altri anni hanno avuto sempre modo di commentare il caso tipico di chi magari attua un certo prezzo, pratica un certo prezzo su un articolo e poi durante gli sconti il prezzo originario misteriosamente viene gonfiato in modo tale che poi il prezzo scontato sia esattamente il prezzo originario. Ho fatto un po' di confusione, ma credo che gli ascoltatori abbiano capito. Vivoli, e di confronti di questi commercianti come ci dobbiamo comportare? Commette sicuramente un gravissimo errore, anzi danneggia quello che è l'immagine invece generale di un settore molto importante. È molto serio, certo. Molto seri. Chi lavora, si alza la mattina per alzare la propria serranda, va per lavorare e per instaurare sicuramente un rapporto di vendita in modo serio. Questa è la stragrande maggioranza della rete. Chi attua queste cose qui sicuramente il fiato molto corto, cioè, vuol dire che l'azienda la dirige per poco tempo, nel senso che poi la gente oggi si rende conto che un atteggiamento così è un atteggiamento sbagliato, oltre a essere sicuramente anche un atteggio illegale. Insomma, speriamo che comunque questi saldi possano andare bene, al di là delle previsioni del numero uno del Codacons, secondo il quale saranno un vero flop, e noi per far ripartire l'economia e i consumi invece speriamo che ci diano delle soddisfazioni. Grazie a Massimo Vivoli di Confesercenti, vicepresidente, a presto, buon lavoro. Grazie anche buon a lei, anno. Arrivederlo. E buon anno anche ad Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, ci risentiamo nel 2010 allora. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Noi abbiamo terminato. Ringrazio oggi Alessandro Longoni che è stato con me in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Torniamo naturalmente domani, commenteremo con due direttori di due giornali economico-finanziari i principali fatti finanziari dell'anno insieme a voi. A domani.